Sì, vi sento, un po' male ma vi sento. Voi mi ascoltate? Noi ti ascoltiamo benissimo invece. Oh, perfetto. Allora, una cosetta sul leader. Io faccio parte dell'assemblea contro la cementificazione del comune di Marino e di recente sono stati arrestati due ex assessori delle precedenti giunte di centrodestra proprio per una questione riguardante i permessi a costruire rilasciati ad un nuovo supermercato della Lidl che ancora non è aperto ma di fatto è comunque ultimato, perché appunto la Lidl è stata costretta, dicono gli inquirenti, a pagare delle tangenti da 130.000 euro per lavori mai eseguiti a questi due assessori che hanno costituito una società per lavori mai svolti, e in più poi si è dovuta piegare a dover assumere, quando sarà aperto questo nuovo supermercato, una ventina di dipendenti da loro segnalati, da questi due ex assessori. Quindi è intervenuta la procura e niente, ha arrestato questi due assessori, poi prontamente rimessi in libertà, e ha verificato che insomma in questo gioco di tangenti, di mazzette e tutto quanto, i colpevoli stanno solo dalla parte delle istituzioni, e stranamente la Lidl, che non ha denunciato queste situazioni ma si era comunque prostrata, per il momento ne uscirà pulita. Il supermercato di fatto è quasi ultimato e chi stava all'urbanistica qui a Marina, all'ufficio urbanistica, negli ultimi mesi aveva bloccato i lavori, ha fatto ricorsi, ha chiesto insomma di eliminare alcune opere proprio per fare pressione sulla Lidl, perché oltre a pagare le tangenti che già aveva fatto non si piegava del tutto ad assumere questi 20 dipendenti. E quindi c'è una situazione in cui la Lidl è di fatto anche insomma organica a certe dinamiche, no, di speculazione insomma anche dalle parti nostre ai castelli. E quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa volevo puntualizzare, poi se chiamo qualche compagno più esperto di me, su Berdini, perché si ripone molta speranza in questo nuovo assessore, no, almeno quello che si dice anche su Radio Onda Rossa. In realtà, se vi andate a vedere la storia che riguarda la cosiddetta Appia Bis, che è una bretella che doveva collegare parallelamente l'Appia da Albano in poi verso Velletri, ebbene lì c'è stato un intervento diretto una ventina d'anni fa proprio di questa persona, di Berdini, ingegner Berdini, per insomma ovviamente favorire tutti questi lavori. Che cosa hanno provocato? Hanno provocato una serie di scempi in zona, e questo chilometro e mezzo di Appia Bis che è stata fatta, che è una cosa ridicola perché deve essere da progetto molto più lungo, è costato varie centinaia di milioni di euro. Stiamo parlando di un chilometro e mezzo di strada. Quindi attenzione quando siccome ha scritto bene, dice un sacco di cose insomma anche condivisibili nei suoi libri, anche nelle sue esternazioni, anche di recente, per carità, perché la speculazione dello stadio Tor di Valle insomma la conosciamo tutti quanti, quindi uno può pure essere d'accordo, però attenzione che poi nella pratica queste persone sono dei tecnici e quindi si mettono poi a disposizione dei input politici che gli vengono dati dall'epoca, era dalla regione mi pare di ricordare, e quindi insomma attenzione a portarli troppo in alto, perché non c'è minimamente da fidarsi, perché ci hanno dei precedenti abbastanza complicati. Quindi se voi adesso fate una ricerca per esempio su Google, se ci avete insomma il computer davanti, vedete un attimo che è successo con l'Appia Bis e vedete chi era uno degli incaricati di questo progetto, e scoprirete che insomma gli scheletri in armadio ce l'hanno tutti, anche i 5 Stelle, per quanto riguarda Berdini e per quanto riguarda quella che dovrebbe occuparsi dell'immondizia dell'Ama, insomma, che proviene da quel giro là, insomma, una provincia territorista. Quindi attenzione a ricorrere troppi fiducia, perché poi anche nei comitati si crea, pure qua a Marina ha vinto il 5 Stelle, no? Come a Roma, con lo stesso numero di percentuale, quindi si creano grosse aspettative. E poi nella pratica, se non c'è, come diceva il compagno prima, dei comitati, di lotta che stanno sul territorio, che sono integrati, che riescono a spingere le questioni proprio nel merito, e poi si rischia di rimanere con pugno di mosche in mano, la gente si delude perché poi si perdono le battaglie. Non deve essere così, perché appunto stabilizzare l'intervento, come stanno a fare pure i compagni Dottor Pignattara, da quello che ho capito, è una cosa importante. E non va detta alla gente che non ripone troppa fiducia in qualsiasi tipo di istituzioni, di qualsiasi tipo di personaggio che magari parlano bene, ecco, perché poi la prova dei fatti in realtà spesso si viene smentiti. Tutto qua. Certo, lungi da noi o da Radio Onda Rossa, penso, mettere in alto Berdini o rappresentanti del 5 Stelle, insomma, anzi, però è particolarmente interessante appunto per evitare i rischi che dicevi tu, proprio per le lotte. discuterne di queste cose, insomma, metterle nero su bianco, perché poi questo, tante persone magari si fanno l'acquolina in bocca vedendo amministrazioni che cambiano e che potrebbero risolvere i problemi, quando dobbiamo, a parte insomma gli aneddoti che hai raccontato tu, in generale comunque tenere conto che c'è bisogno di costruire dal basso, insomma, la capacità di far valere la propria volontà. Quindi insomma, grazie per quello che ci hai aggiunto. Insomma, la Lidl è un bel mostro. Qua attorno alla Lidl di Via dell'Acqua Bullicante negli ultimi 2 anni sono state costruite altre 3 o 4, se non sbaglio, tra la Tiburtina e zone attorno. Quindi insomma, parliamo di una multinazionale che evidentemente nel quadrante di Roma ha dei giusti agganci, insomma, e da questo punto di vista la battaglia si sta facendo a Roma Est e anche in altre zone sicuramente sono di grande valore e ci danno, sono le uniche che ci danno veramente la cifra di ciò che vogliono gli abitanti di quei territori, quali sono i metodi efficaci per farli applicare, perché poi insomma ci si scontra con tanti limiti e tanti blocchi, e siamo sicuri che anche questa nuova giunta sicuramente arriveranno le contraddizioni, i nodi al pettine, e non ci metteranno neanche tanto. Quindi insomma, posso fare solo un brevissimo appello proprio molto tecnico e specifico, perché come diceva il compagno prima, i comitati di lotta a volte devono usare degli strumenti come abbiamo usato pure noi, ricorsi al SAR, perizie eccetera eccetera. Servono compagni o persone che si dedicano a queste cose, come lo facciamo noi compagni? Magari lo facciamo in architettura. Dovremmo essere di nuovo in linea col compagno di Castelli, ci senti? Sì, vi sento, è caduta la linea dopo che stai facendo l'appello, insomma, sui ricorsi al TAR. Dicevi? L'appello era praticamente a far sì che tutta, anche questa gente che ha votato, chi di qua, chi di là, chi 5 Stelle, che sono anche molto... gente che proviene da lauree anche importanti, no? Perché molti sono, abbiamo visto il sindaco di Roma e Virginia Raggi che è un avvocato, qui a Marino la stessa cosa, insomma sono pieni di avvocati, pieni di bravi tecnici laureati in varie materie che possono essere utili alle varie cause, contro i rifiuti piuttosto che contro la cementificazione, di mettersi a disposizione gratuitamente dei comitati di lotta. Perché, come diceva il compagno prima, purtroppo queste strade vanno percorse, dico purtroppo perché sono molto onerose, molto dispendiose in termini di energie, di tempo, di raccolta fondi in questo periodo in cui insomma la gente fa fatica a arrivare a fine mese, e l'appello va rivolto in generale a tutte quelle persone, a tutti quei ragazzi che si laureano e che comunque lavorano gratis perché magari devi fare anni di praticantato. Beh, a questo punto conviene che i compagni, chi si laurea dall'università in queste materie tipo architettura, tipo studi giuridici, si mettano immediatamente a disposizione dei comitati di lotta che hanno bisogno di queste forze, di questi strumenti, ecco, di farsi strumento di queste cose, cioè non finire come spesso accade dopo l'università pure la militanza, perché poi uno ha altre questioni, per carità, personali, ma continuare con quello che ha studiato in quell'ambito lì, a cercare di ribaltare il sistema e non esserne parte invece integrante, perché è costretto da ricatti lavorativi. Perché anche l'ultima cosa e poi chiudo, gli archeologi quando vengono chiamati a fare i sondaggi per le costruzioni, voi lo sapete che praticamente sono pagati dalla ditta delle costruzioni, dai privati, e quindi quello che vanno a scrivere sono cose che ovviamente sono a uso e consumo del privato, perché è lui che paga poi la sovrintendenza ai beni archeologici o gli operatori stessi, e quindi si creano delle dinamiche per cui pure se trovi la tomba di Nerone sottoterra, basta che mutualizzi a 10 metri quadrati e stai a posto, la sovrintendenza ti dà il via libera, fai tutto il cemento che ti pare, gli lasci quei 10 metri quadrati che tra l'altro diventano un surplus di valore per le case nuove che vengono costruite al Palazzinaro, che può alzare ulteriormente il prezzo. Cioè, quindi è un meccanismo che va assolutamente destrutturato con lo studio, con l'applicazione di chi ha i titoli per poterlo fare, tutto qua. E rilanciamo questo appello sicuramente a chi sta all'università, insomma, di dare una mano ai comitati di lotta. E appunto ti invitiamo anche a te, insomma, dopo questa corrispondenza e questo approfondimento sulla lotta a Roma Est, ci collegheremo con la Val di Susa per ricordare oggi che è l'anniversario dello sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, un'esperienza dove comitati di lotta territoriali hanno sicuramente fatto un salto in avanti sul piano proprio di prendere in mano la questione, di voler fermare fisicamente un'opera che sappiamo... C'eravamo il 27 giugno, eravamo già operativi in Valle di Susa, insomma, alla grande, ci ricordiamo bene. Sono tenute qualche tenda nostra, c'erano ancora sulle guardie, vabbè. ricordiamo tutto. Alla grande. Allora, ti ringraziamo per la corrispondenza, insomma, e invitiamo tutti e tutte a rimanere in onda. Lasciamo un attimo un po' di musica e chiamiamo i compagni della valle. Grazie. Va bene, buon proseguo. Ciao.